entra, lo faccio. Ma se io sento che non chiamo, perché fischiano a me, poco mi interessa. Tu hai chiamato? Io sì, ho fatto il fischietto. Ma tu che lavori da una vita a produttore, se Grillo di zia che ha frusciato fiori in piazza, ha detto io non mi chiamo Fruscio, io mi chiamo Ignazio Bassetta. Ma lo sai che hanno operato, come si chiama, Fiori, quello che presenta tutte le manifestazioni, ce l'ha presente? A me lo dici, a Pierluigi Fiori. La sorella ha fatto tutte le medie con me, Teresa, che è morta, e lui c'ha lo stesso problema della sorella. No, ora l'ho operato perché era troppo robusto, e non ho fatto l'operazione allo stomaco, come fai? E la sorella non è riuscita. La sorella ha avuto l'occhio suo intervento, che era diventata una botte, capito? E però, dopo un po', mi è andato male tutto. Sai cos'è? Che quando fa quel tipo di intervento dice che è rivissuto. Come fai questo tipo di intervento? Devi mangiare tutto spettettato, non so, tutto mazzinato, non prendi questo manco a mangiare. Quando non è come se lo stava facendo. Poi quando ha saputo che doveva macinare tutto e mangiare a piccoli tetti, gli ha detto non lo faccio più, è andato a fare quello che col psicologo, gli ha detto tutto quanto, prima dell'intervento ti fanno fare quello che col psicologo. Quando ha detto che gli ha detto tutto, gli ha detto lui deve sapere questo e quest'altro, che lui non può più mangiare, per dire, roba intera, roba fettine, cose così, deve fare tutto macinato, tutto a pezzettine per mangiare, e mangiare poco a poco, perché sennò ho vomitato. È tutto frullato, con la cannuccia, lo so, la sorella era peggio di lui, ma peggio di lui, la Teresa era arrivata a 100 kg, ha subito l'operazione, sembrava fosse andato tutto bene. Dopo forse neanche un anno mi è venuto un tumore allo stomaco. Poi è rimasta, capito? L'età mia, l'età tua, mia e tua. Anzi, bugia, era più piccola. Più piccola, forse del 62 addirittura, o del 61, non mi ricordo. Vabbè. Chi è che vuole entrare? Luca, tu sì. Vabbè, comunque. Lo so perché io ce l'ho nelle amici, capito? E ha scritto che è a disposizione per chi volesse informazioni, eccetera, eccetera. Vuole aiutare anche altra gente che deve fare questa operazione, capito? Io, vabbè, ti ripeto, è un'operazione molto semplice ma allo stesso tempo complicata. La cognata di mia suocera ci è rimasta ad esempio subito dopo l'operazione, subito il giorno stesso, la mattina l'hanno operata, la sera si è aggravata, ed è molto agibile, aveva 67 anni mi fa, una cosa del genere. Sono operazioni semplici ma complicate. Se mantieni, se il fisico lo permette va bene, ma Pierluigi già non è riuscito, però evidentemente è andato bene, ma adesso speriamo che non ci siano complicazioni dopo, capito? No, ci aveva una bella pancia, forse tu non te lo ricordi, era un bel grosso di pancia, ma grosso però. Pierluigi è stato sempre un mangione, non so se tu hai conosciuto il padre della postazione. Giovannino Fiori, nella capostazione, poi dopo di lui c'è stato Gigi Urtis, ma cos'è come cantieravascio? Sarà stato un metro e neanche un metro e 60, ma lui mi avanza e va via. Magari, ma io ne conosco la produttore dello stesso, c'era una ragazza del Santetti che era un bel grossa, si è fatto quell'operazione, è una silhouette adesso. Io so già, ti ripeto, è un'operazione che funziona, però puoi avere complicazioni dopo, spero di non, perché Luigi. bambini. Da bambino andavamo a giocare lì alla stazione, al collo lì di Ponte Romano, tutti assieme. La sorella era a scuola con me, ha fatto elementari e tutte le medie, Teresa. Capito? Quindi conosco bene, il padre, la madre, tutti conosco. E vabbè, speriamo bene. Sì, l'avevo visto prima della festa grande, una manifestazione che c'era. Non ricordo se era il carnevale tipo, una cosa del genere, perché è basso. Era giù, poi vediamo anche a camminare, ce la facciamo anche a camminare e anche a grasso. Sì, lui ha tutte le manifestazioni, è proprio il presentatore in Porto Torre, tutte le manifestazioni sportive, addirittura l'aveva chiamato anche, come si chiama, Alberto... Alberto Muda, lo faceva, li faceva presentare le gare pugilistiche. Io sei inoltrato di su Paul De Santi, ho visto a TVG, mi vedo in mezzo alle bene, ancora non l'hanno investigata, ci ho messo davanti a te fatti con me. Si offende, se lo chiamano col suo nome si offende. Non si chiama Paul, il mio compagno l'ha chiamato per nome, l'ha detto, io mi chiamo Paul, non mi devi chiamare così. Che è esaurito proprio, infatti. È esaurito. Vabbè. Che vuole andare avanti? No, non parlare, se non rispondi quando ti chiamo, non parlare. Non ci interessa le tue interventi. Riprendi già. Boh. Ti sembra la voce di Alessio, sembra. Da lontano. E non è la voce di Alessio. Cioè, Alessio anche si schiaccia la portata e qua col portato dentro casa mi arrivano 9:30. Questo è Santiago 5, 6. Sembrava Luca, ma non è Luca. Dimmi il tempo, pioggia, tutto pioggia. Bisogna prenderla come viene il tempo, per carità. Allora, e che ore sono qua? Sono le 7, quasi meno 5. Siamo che tardi, stavo chattando con mia figlia, mi è passato, siamo stati tutta la sera chattando. Io stavo cucinando un po' di carne e quindi mi è passato un po' il tempo, sto preparando le verdure, poi sono andato qua, mi sono la televisione, stavo guardando il grangheo, ma mi pare sia finito, ma c'è il tempo, così. Ho facciato il giornale, e io vabbè, a me basta che arrivano alle 7:30 appunto. Porto il cane, per me la serata è finita. Io qui a parte mi sono fatto un po' di funghi, ma oggi ho preso per peperoncino, ma da mangiare un po' di vino bianco. Ma veramente buoni, quelli che sembrano antuna, dai, sono quelli tipo antuna. Erano veramente buoni, saporiti. Carboncelli, ottimosi, sono buonissimi quelli. No, io ho preso un po' di coscette di tacchino, non molto grandi, questa notte l'ho fatta in tegame con gli olivori, carote, cipolla, ne avevo voglia, e a parte abbiamo mangiato un bel risotto, non tanto, mia figlia ci ha detto ne ha allucinati, anche lui c'è tra le 8:30, adesso si è sdraiata un po' a riposarsi, si è sdraiata, ho fatto a mezzogiorno alle 3, alle 8:30 esce a 1:30 stanotte. Ma sempre dove sta la barra? Sempre al solito posto. E allora? E questi tubi in capo, mamma mia, straziante. E vabbè, da qui va. E comunque, ne avevo anche voglia di mangiarmi i funghi così. E sono veramente saporiti. No, non erano i carboncini, Claudio, sono quelli bianchi. I carboncini li ho comprati l'altro giorno, li ho fatti con riso alla milanese, con lo zafferano. Quelli sono buoni lo stesso. Però questi qui li ho fatti, aglio prezzemolo, peperoncino e vino bianco. Ma ti dico che erano veramente buoni, li ho mangiati. Io non ho mangiato altro, li ho mangiato solo funghi. Io già le mangio. Sì, l'altro giorno abbiamo fatto anche noi lo stesso, sono buoni. E adesso, pensa la prova. io accetto, non ci arrivi. Non ci arrivi già. Allora no. Allora no, se no si poteva fare da febbraio 400.000 in pensione, guarda, 400.000 persone, minchia. Vabbè, speriamo di dare un posto ai giovani. E cosa ci vuoi fare? Fatti il conto, 38 anni, perché a settembre ho fatto 38 anni, più 59, perché devo compiere gli anni il 20 ottobre, 59 anni, fatti lo conto. Io il 20 novembre, 59, già. C'erano, se ne avevi 40, 41, 59, ci potevi, ma con 38 non ce la fai, non c'hai l'età, i contributi ce li hai ma non hai l'età, quindi vabbè, hai scelto ancora, si tira avanti la baracca. Sì, siccome ce la facciamo, andiamo avanti. Non avevo più pazienza, e anche se non mi danno pressione cosa faccio? Se non ce la faccio non ce la faccio, non è che. Poi adesso provo a rientrare, 25 rientro, provo a rientrare, vediamo un pochettino. Se riesco a lavorare e mi lascio in pace, sto cazzo di piede, guarda, non è più subito. Vabbè, ritorni. Non ci sono imbecilli proprio. Una mansione dove non forse il piede, vola. Una mansione dove non forse il piede. Inutile, anche se stai in piedi, stai in pescheria, stai in piedi, tutta la lì. C'è una mansione dove riesci un po' a stabilizzare questa cosa. Ma vedi con il lavoro ci ho parlato, ti ho telefonato al medico del lavoro, perché ha detto che voleva parlarmi, mi ha detto cosa stavo facendo, questo e quell'altro, io problemi non ne ho, camere per barica, medicazioni e riposo. Io mi metto quello che posso fare io, Gianni, è toglierti dalla sala. Cosa mi fai fare se mi togli dalla sala? O mi mandano in banca a fare le documentazioni, cioè queste cose qua, tipo scelta. Perché no? Perché no? Qualche mansione che appunto riesce a compensare questa guarigione. Se non che ti muovi in pescheria, la pescheria ti cadri tutta lì. Ma non che ti ripeto, visto che sei dietro il banco, non cerchi di metterti un qualcosa, una ciabatta morbida, capito, una scarpa, una ciabatta, così metti. Se non esci da lì che stai dietro, per fare qualcosa, se no che tu vedi non ti sarà più. È un controsenso, per te e per loro, ma soprattutto per te. Che per te è un handicap, nel senso che è una rottura di scatole. Però manca una persona. Claudio, ho fatto 4 anni con piede così a me. Adesso si è quasi chiuso del tutto. C'è proprio un puntino piccolo, piccolo, piccolo, ma ho paura che se torna al lavoro si torna vivo. Vabbè, comunque dove si è chiuso è ancora molle, non è ancora, diciamo, stabilizzata bene la pelle, capito? Non si è stabilita come deve essere, c'è un po', è un po' concavo, rimane un po' infossato, Vabbè, comunque si è chiuso quasi del tutto, non voglio dire che si è chiuso del tutto, ma quasi. Claudio, comunque in pescheria non si può stare in ciabatte perché è tutto acqua, praticamente nelle cene noi abbiamo anche la macchina del ghiaccio che continuamente fa ghiaccio, poi a volte trabocca, esce il ghiaccio da sotto la cella, bagna tutto, devi stare sempre con un tiracqua, tirando e buttando nel tombino perché sennò cammini in mezzo all'acqua e scivoli anche, lui che sono caduto io mi sono fatto male a brigole. Tanto io non pensavo di riuscire a tornare il giorno dopo, mi faceva male tutto il braccio, sono caduto davanti a un cliente, una signora mi ha detto, ho una mano, non si sta, da dove non riuscivo a respirare. Ho preso un colpo al braccio e alla costola, capito? Come sono caduto, ma proprio scivolato di brutto. Sì, hai insaccato, e ti è andata bene, non ti hai rotto qualche costola. No, allora no, io pensavo c'era la pedana asciutta dove se c'è acqua è peggio. Se c'è acqua è peggio, puoi scivolare e ti fai male davvero. Però cioè, non capisco. Ma noi chi ha patologie del genere, adesso mi tocco da poco, stavo parlando con un collega che era addirittura con me, ha una patologia appunto è al diabete, poi non sta bene, si deve fermare, viene affanno qui e là, e gli hanno dato un impianto solo da gestire lui a casa. Nulvi, prima viaggiava ed è Nulvi, lui è a Nulvi, sta tutta la mattina praticamente seduto lì, tipo guardiano dell'impianto. Se c'è qualcosa da fare chiama, e l'hanno aiutato, perché mi pare mancano 2 o 3 anni che lui andarsene, non rientra in questa quota 100 neanche lui, e quindi sta tirando avanti così, però l'azienda è venuta incontro, finiti sono due gannibali doppio. No, già me l'hanno cambiata la mascella anche a me, facevo l'autista, adesso mi hanno messo a fare altri lavori, lo lasciamo con pensa di quello che facevo, lasciamo prendere. Però tiriamo innanzi, già più va. Tiriamo innanzi. Ti ha pagato, vabbè, già. Quello bisogna prendere, io, guarda, anche se ho rischiato, però un po' di sacrifici si fanno, è chiaro che non c'è lo straordinario, non ci sono tante cose, qualcosa manca, però mi accontento, ma almeno sono libero da ogni impegno, perché poi con la patologia, io grazie a Dio patologie non ne ho, però non grava di più. 200 km al giorno in macchina vogliamo fatti, andare e tornare, sali scendi, guarda dico, avanti quando è venerdì della settimana passata mi ha fatto il cancello, sono rimasto venerdì sera, sabato tutto il giorno, domenica, ancora ieri, domenica e lunedì, perché oggi è martedì mi pare, o mercoledì, non lo so come manco, se cubogliendo rientrare, a forza di bustine. Proprio perché ho l'ultima della colonna vertebrale che non viene più. Molto, ho l'artrosi cervicale, lombare, di tutto va giù, proprio dall'umidità, dal coso e dalla macchina. C'ho la schiena pezzi alla macchina. E quindi non ce la facevo più. E ne ho approfittato. Ne ho approfittato perché fortunatamente avevo i contributi non le fatto, se no l'avrei presa nel questo. No, io da così ce l'ho la mano, non riesco più a stringerla bene, non riesco, se devo svitare un tappo della bottiglia, devo svitarla con l'altra perché non ce la faccio, non riesco a stringere, non c'è più forte la mano. A me mi si gonfia il polso, si gonfia tutto il polso e mi fa male, quando per esempio sto col pennello, verniciando, facendo, comincio sul gattore non ne parliamo. Quindi un sacco di cosette che sono tutte derivate dall'umidità, dagli sforzi e da tante cose. E quindi si rabbiglia il luci. Io mi sono accontentato, sono tante, perché con quello che prendevo a quello che mi danno, la differenza c'è, sono 300 euro in meno, però già, io non ce la facevo più a continuare a lavorare in quelle condizioni, avevo chiesto il trasferimento anch'io, se mi davano la zona di Usio che era vicino, manco a parlarne, a chi mettiamo, chi diamo l'incarico, qui là, e vabbè, fate una cosa. Sono fatto la mattina, sono arrivato in ufficio a Sosso, c'era proprio il responsabile distretto, ho trovato questa chiave del furgone, perché dove sta andando? A casa, come si sente male? No, a casa, non ci vengo più. Non ci viene più, lei è un pazzo sono. La chiave del furgone. Questa è tutta la documentazione della macchina, questi sono i rapporti al mese, è tutto chiuso, queste sono già certe, l'ho chiuso tutto quello che mi competeva, non ci credeva. Ho detto lei no, ho detto proprio che non lo sanno in testa, non so sanno in testa. A me che l'ha compresa. Beh, ma te già sicuro di andare in pensione. Se voglio la documentazione pronta, non ha detto niente a nessuno. Come quando mi hanno mandato la busta arancione dall'Inps con l'estratto conto a Giuditu, come sono andato al patronato, ho detto fammi i conti, guarda se è tutto regolare, ma ha detto ehi, i requisiti alla grande. Allora io preparo la domanda, come mi hanno accettato la domanda, immediatamente io sono andato via a novembre, poi perché dovevo chiudere l'anno, a novembre 2017 da lavoro, facevo un mese più di ferie, ho fatto tutto dicembre in ferie, dal primo gennaio non sono andato più, dal primo di febbraio mi hanno messo in pensione. Adesso cosa è strada? Non so che c'è di vero, se ti rendi alla longa, io sono, a volte non mi sento bene, il diabete mi stanca molto, mi rende molto, molto stanco, forse anche se fai poche cose mi stanchi, figurati quando lavori molto, poi quello che io non ce la faccio, ma devo tornare lo stesso, troppo così, devo stringere i denti e continuare ad andare avanti, ci voglio campare, se no rimango in questa maniera. Già, senza mangiare già non ce ne male, però vengono a mancare tante cose, non c'è niente da fare, però è così. La salute è la prima cosa, ma ci vedi che ne cosa me la fotti. Tanto, vita non è di vita di un operaio, di uno che ha lavorato una vita, cosa pensi? Che cambi, quello è tono di vita, a meno che non nasci ricco, allora vabbè, però si continuano a fare sacrifici, o lavorando o senza lavorare, cercare di mettere qualcosa da parte per non stare poi all'asciutto. Però è uscito, vabbè, speriamo che questo rientro sia positivo, però anche noi dobbiamo capire che se uno ha una patologia come la tua, se ripeto, il mio collega l'hanno aiutato, non fermo gli annulli, mi sono sentito anche l'altro giorno, ho cambiato gli occhiali di nuovo da poco perché sta diventando mezzo cieco, pure non vede manco i contattori, nulla, deve prendere le tue quarantene in ambiente. Non va bene così, non va a toccare. Questi 2-3 anni ce li facciamo così, piano piano, quando non sto bene mi metto malattia e tira a campare, però anche la malattia deve essere attesa, perché non è contributiva, capite? Non è contributiva. Il fratello Flyant l'ha fatto e infatti va al prossimo anno, se no sarebbe già il prossimo anno, forse non ce la fa neanche. Non ce la fa neanche proprio per la malattia, perché non so quanto devi fare e te la conteggiano, te la scalano, capito? Sì, ma se sei invalido non è così, claro. Se sei invalido ti scalano niente, se tu hai fatto la malattia per invalidità non te ne scalano in forma. Comunque io dovrei prendere anche la 104, perché col diabete sta dando la 104, stavo dando gli assicuri. No, non c'è nessuno di per la 104, già, informati bene, c'era mio fratello, anzi, veramente c'era la moglie, non mio fratello, e non ne prendono soldi, non ce n'è di soldi per la 104. Ci sono queste agevolazioni che danno, si può sentare 3 volte, mi pare, non so se è la settimana o al mese, dal lavoro, devi appunto avere delle mansioni vicine a casa, devi lavorare vicino a casa, tante agevolazioni, ma soldi non ce n'è, meno che no. Non stia cambiando la legge, ma mio fratello è già tanti anni che era 104. A 104 per il diabete danno l'assegno, 880 euro di assegno con la 104. E adesso è così, almeno. Io l'ho letto su internet, stavo controllando le pensioni, questo e quell'altro, mi stavo informando e c'è scritto che chi è diabetico ha diritto a questa legge qua. Già, non insisto perché lo so, mio fratello si è comprato la macchina con la 104, c'ha l'IVA al 4% mi pare, non si è quella agevolazione, però di soldi non so, è tanti anni che ce l'ha, ma avrebbe detto. 800 euro mesi, fa la giubilo allora. 880. Al mese? Sì, al mese. Falla subito. Ma non devi lavorare però. però. No, no, anche la volata te la danno. Sai cosa stai aspettando a farla? Il 21, vedi il 20. Se è così, se no te lo chiamo, mi ha fatto lavorare. Perché lui è molto informato. Lui è al centro diabetico e è il number one. Sto viaggiando di Zanni, anche come stava andare al centro diabetico. Quindi è molto informato. E se non mi ha detto niente, avevamo altri giorni ancora. Un dire che non so, provo a chiedergli lavoro. Lui subito a lui, non si esistente. Guarda, io, vabbè, a me praticamente per il dito, per quel dito che ancora è messo male, l'unghia piano piano sta uscendo, però non lo posso muovere, era perso quel dito, mi hanno operato due volte, dermatologia, e fortunatamente avevo un infortunio, un'assicurazione, un'infortunistica con la banca Intesa, per appunto infortuni personali, diciamo, questo me l'ho fatto io. Mi danno 30 euro al giorno, per un anno però, solo per un anno. Infatti l'altro giorno ho portato documentazione e ancora me li danno. Però come il dito si riprende, che lo posso muovere, che adesso è molle molle perché non c'è unghia, messo un po' maluccio ancora. Però quella è una cosa mia, capito? Hanno 800, il mese scorso ho preso 880 euro. Ma al mese? Ci sono al giorno, 30 euro al giorno. Ah, non ho tempo capito. Allora va bene, dai. Non va bene che ti sei fatto male, ma va bene, visto che oltre, diciamo sempre di solito, oltre il danno la beffa, questa volta la beffa non c'è, ma c'è un danaggio, dai. Io insomma ho aperto le pene all'inferno. La prima volta che sono andato mi volevano ricoverare l'ematologia, sì, a meno di due. Tagliarlo proprio, fatto una falange, il pollice, capito? Perché era completamente, il pulso era completamente morto, non c'era più niente. Invece l'ematologo ha detto proviamo a recuperarlo. Infatti sotto c'era la cicatrice, sotto l'unghia, titubare il dorso. Però gli avevo fatto la cosa, con tutta la documentazione, il pronto soccorso, l'ematologia eccetera, ho fatto la richiesta, la banca Intesa mi hanno accettato, è già 6-7 mesi, ma quelli sono accantonati, io già, non potrò essere, però per dire, mi danno perché è una cosa mia personale, una cosa mia personale, poi al prossimo anno siamo nel 2018-2019-2020, mi ritiro la Reale Mutua, che c'avevo un'assicurazione mia, la stessa personale, anche lì mi spettano un po' di soldi, io beh già male di una. Ma perché siamo rugge, no? Che sono finito a prendere, siccome che è saltato il tema e non si è accesa la luce, qui sono gli elettricisti mi cambiano le lampadine, ma li sono dimenticati di sollevare il tema. Dopo scendo, però già alla fin fine cosa, l'importante è star bene, l'importante è stare bene, poi il grande agito anda nei venini. Ehi, già dici tipi di 50 euro. Vabbè, ce ne buio adesso, che te va a fare la spesa, non basta mai 50 euro di spesa, sono solo. Se dovessi essere con la famiglia, guai, 50 euro di spesa da solo non mi bastano. A volte arrivo lì 100 euro, 110, te lo spingi, non è che il grande mi senti. Faccio la spesa, a casa di volta sono curto. Ma lo vedi che è Luca? Ciao Luca. No, Luca è Santiago 8 e mezzo, quasi 9. Come era Santiago 5? Luca già lo riconosco, la signora. Sì, già. Non ne ha due di io. Ogni due giorni, ho detto mia figlia non c'è quasi mai. Ogni due giorni, stamattina sono andato, ho fatto il carico dell'acqua. L'altro giorno lo stesso, 70 euro, 3D, non vuoi più nulla in frigo, torra. E così, così perché la vita è un beccare, non si sa mai. ormai è così, caro mio. Mm-hmm. Vabbè, piano piano. Piano piano, piano piano, è bello carie. Mi hanno raccolto, va. Cani, ma via, grana. Ma dai, i macellari praticamente stanno sempre cambiando lì perché è una cooperativa e non sono interni, sono esterni, capito? Intanto ne cambiano uno, ma può darsi che come no, però praticamente riconosco tutti. L'hanno Leporino, no, non ho ancora visto, però sicuramente l'hanno messo ultimamente quando io non c'ero, e io sono in malattia, quindi non lo so, magari l'hanno messo ultimamente, o darsi di sì comunque, perché con la Leporino non ne ho mai visto, la verità. Se faceva gli stessi orari miei ci mettevamo d'accordo, pagavamo la benzina insieme e sarebbe lui. Succedono sempre dei disguidi, magari uno si sente male e non ci vuole andare alla morte, deve avvisare l'altro, sa, è tutto un casotto, però noi già lo facevamo, noi viaggiavamo in tre a Sassari e mettevamo un giorno, invece che mettere la benzina, mettevamo la macchina un giorno più in uno, un giorno la prendevo io, prendevo gli altri, un giorno la prendevo l'altro, ci trovavamo tutti nello stesso punto, all'inizio lì, di cosa, di Via Giovanni Pascoli e scendevamo tutti insieme. Che era il mio vicino abile portone che è scattato salvavita dell'illuminazione esterna, adesso la sta attaccando, si gioca elettricistica, fate i travagli e poi la sono salvavita abbasciata. C'era uno che faceva culturismo, secondo me era di Sassari, faceva due muscoli allucinanti, un fisico, quando si cambiava nello spogliatoio, vabbè, doveva andare a burapputa per farsi vedere, si poneva la magliettina, la manica accesa, come fanno quei culturisti. Diciamo che ogni fisico, ognuno il principale è andato, gli ha fatto le pucci. Lui gli ha detto, ascolta, tu a me abita da un po' dove ti fa, dai di pagare straordinari, compreso, mi sono messo un milione e non mi sei pagati, ma cosa vuoi che ti pigli per un collarino, ti dico, ma poco non rimuove male in alto, mi hanno preso. Vabbè, però sempre il titolare non è per mettere mai addosso. 7.25, finché, già le 7.30 sono già, la faccio per carbonato. Vabbè, ma non li metti la maniata, se però uno si incazza pure quando è un padre di famiglia che viaggia per andare a lavorare e poi non li paghi le ore che fa, uno si incazza pure, è normale. E già detto il principale, sai cosa ho già detto? Che tutte le ore che faceva le passava attaccata al telefono. Addirittura, e allora vuol dire che era controllato. Ma non so, però poi lui si è incazzato ancora di più e stavamo quasi per partire, poi vabbè, comunque ne cambia Luca, ne cambiano ogni giorno lì, un giorno viene uno, un giorno viene l'altro, e lì facciamo praticamente tutti i crai, la carne che va da Mura eccetera eccetera la preparano tutta lì, poi c'è il macellaio che prende il furgone e poi la distribuisce nei vari negozi. Prego. Vabbè, è un centro commerciale. Ah, è cambiato casa. Ah, c'è un vecchio, io vi lascio che vado a prepararmi a poterca, me ne esco un poco, c'è avuto da girare a casa. Il vecchio mi sembra Franco da Sorso, io vi saluto. Ciao Gianni, ciao Franco, se sei tu, ciao Luca e quelli che sono all'ascolto. Ci sentiamo alle prossime, riprendi, avanti vecchio, eh? Sì, ciao Corio, ho atteso che sta disondabile, perché ho appena acceso e vi ho sentito, è un apparecchio che non vi sentivo. Ciao anche a Gianni, Luca non lo sento, niente, perché se non via qua? Ciao, ecco, io a portare il cane, però io ho il primo del cane, sono già alle 7:30, sono tutto lì a casa, stamattina sono uscito un po' a fare un giretto e basta, e poi io non esco tutta la sera, no? Sono sempre a casa, avevo un po' le radio accese, ho sentito Gianni, sono entrato, cioè no, le mani sciù. Vado a portare il cane, fa, capito miei, a fare una passeggiata che fa bene, c'è anche, non c'è neanche freddo, si sta benissimo. Ti lascio con Gianni, sino a quando rimane, e Luca c'ha l'antenna interna, quindi non lo senti, è già basso dentro sasso. Riprendi fra, grazie per essere entrato a salutarmi, dai, ci sentiamo alle prossime, fatti sentire ogni tanto già. La sera io le radio ce le ho accese qua, sul canale 10, a volte ci siamo, a volte no, ma come ha fatto Gianni, se sono all'ascolto già rispondo. Riprendi e fai girare fra, buona serata a tutti. Sì, grazie, sentiamo allora. Ciao Claudio, buona passeggiata. Avanti Gianni. Sì, ciao Fabio, hai sentito? Ciao Claudio, buona passeggiata, dai. E fra poco vado anche io, fra, perché anch'io devo portare il cane, mi telefono a Marco adesso, se non c'è gente a casa ci riusciamo. Oh, yeah. E tu fra, lavorando sempre? No, negativo, sono in pensione. E da quando? Dal 1 giugno. Caspita, a godertela allora. Sei contento? Alla grande già, non ho giù di battagliamo chissà niente. Oh, yeah. Per carità. E vabbè dai, io invece ancora devo sudare, ancora me ne manca, che con la legge nuova accetto non ci arrivo, perché ho 37 anni di contributi e 59 anni. Vabbè, li devo ancora fare, ma manca poco, li faccio il 20 ottobre, quindi manca poco. Ehi cazzo, ehi vabbè, piano piano, diciamo che io sono stato fortunato che hanno fatto quella legge là, l'hanno fatto, quella dell'APE, e avevo tutti i requisiti, mi hanno mandato la lettera che potevo andare, sono andato, ho giocato per i conti, ciao e arrivederci. Vabbè. Cosa era quella dell'app e com'era? Che non mi ricordo. L'app social, quella lì era. Allora, c'erano, mi sembra che sono tre tipi solo. Una che stai 20 anni pagando, quella io non l'ho presa, non ho perché avuto un gatto, io avevo i contributi, ma io sono andato con 41 anni di contributi però, Solo che mi trattengono sino a 67 anni e mi trattengono la tredicesima e gli assegni familiari mi trattengono, dopo che faccio i 67 anni mi danno sia la tredicesima e gli assegni mi danno anche, capito? No, la pensione la sto prendendo a pieno. Ah, ecco. Vabbè, dai, è interessante che ti sia alzato per campare, fra. Guarda, non ho perso niente già, da quello che prendevo lavorando, perché mi ho fatto i calcoli, e fai, ci spendi 150-200 euro tra macchina e tutto, e guarda, 1.400 pulizi. Sì, me ne ho andato subito io, con 1.400, va benissimo, infatti quando mi ha fatto i conti e mi ha detto cosa prendeva, gli ho detto infatti me ne sono andato un mese prima, perché il mese di maggio loro volevano, cioè uno, il capo squadra, il principale, invece mi ha detto andarmene quando volevo, e invece il capo squadra dice no, dice mi serve il personale, e quello mi ha fatto a me. Come sono andato mi sapevo, ci avevo le figli, ha detto se me li dai, me li dai, io non voglio andare a dire. Oh fra, e io? Però non va bene, prendi 10 euro in più di me, sei incontrato. E vabbè, dipende dalla persona, dai, lo sai, io come dicevo a mio collega una volta, dice ma te ti stanno dando di più, a me di meno, perché non te lo meriti. Io sei mesi prima mi sono andato, potevo tranquillamente farle, ma non le ho fatte. E quello è, non... è chiaro che lavorando prendevamo di più, perché io se facevo ore no, erano più soldi, secondo quello che devo fare erano più soldi. Però qua quando vai a perdere quasi niente va bene lo stesso. Sì, anche a me mi avevano proposta l'APE, però non l'ho fatta perché avevo la contribuzione netta proprio al millesimo, capito? Avevo 41-8 mesi e quindi adesso bisogna aspettare, però no, bisogna agitare la nuova legge, 62-38. Se i miei colleghi vanno via, figura di Careggi, bambanda sì, vabbè. Dai che vado, un abbraccio, riprendi fra. E non posso fare il contrario, che faccio già il contributo. Già, magari, te lo auguro, tu ce li hai i contributi, però le elettori hanno messo bastardi. Perché inizialmente in campagna elettorale, perché sono degli assassini, in campagna elettorale quando hanno proposto la quota 100, Salvini e Di Maio, hanno detto che facevano la quota 100 per essere alla pari, era 40-60, capito? 40 anni di contributi e 60 anni di età. E invece hanno fatto 62 anni in Bursada, però hanno abbassato da 40, l'hanno portata a 38, quindi non è cambiata niente, cosa le puoi dire? Va bene, dai, io vi lascio, eccetera, eccetera. Già ci aggiorniamo fra, stammi bene, un abbraccio. Via, ciao già, ci sentiamo. Già, tu quanto hai detto che ne hai i contributi? 37. Sì, allora qui, se avessi avuto 63 anni saresti andato quest'anno, con 63 anni, perché potevi andare con l'APE social, potevi andare con 63 anni e 36 anni di contributi. Beh, io Franco, guarda, vi saluto tutti cordialmente che è venuta gente a casa, ci sentiamo. Ciao a tutti, buonasera. E ya, ciao già, alla prossima. Ciao già, ciao fra. Fatti sentire che già ne parliamo di questa cosa. Ciao. Ciao.